www.radio3pod.rai.it. It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli tutto va avanti come in un grande organismo artificiale. Kappa e Dra hanno lo spleen. Drago, un tempo era di moda avere lo spleen. Però anche adesso, stai tranquillo, è pieno di depressi, guarda me. Sì, spleen. Però soltanto che nessuno usa più la parola spleen. Adesso appunto si dice sono depresso, sono in sbattimento, sono in paranoia, ho tendenze suicide, oppure appartengo alla Ritalin Generation. Però la parolina spleen non significa più niente per nessuno. Esatto. Giusto perché studia la letteratura francese. Bien sûr, capa Baudelaire, le spleen è l'ideale. Eppure contemplando il desolato paesaggio della fabbrica, Drago, quello che mi pervade non è lo sbattimento, non è nemmeno la paranoia o la Ritalin Generation, no, è lo spleen, il vecchio romantico spleen. Mi siederei su un masso con un'ortica in bocca e lo sguardo perso all'orizzonte. Un'ortica in bocca? Sì, una pianta qualunque, Drago. Magari un'ortica no, ma qualcosa che mi esce dalla bocca deve esserci, sennò che spleen è? Sì, però hai anche i capelli un po' troppo corti per avere lo spleen. Gli uomini con lo spleen hanno sempre tutti una pettinatura spettinata, come dopo lo shampoo. Che si fa con le uova? Chi ce l'ha lo spleen? Invece di, arrovellarsi e dire, oh povero me, fortunato e beato te che ce l'hai, lo spleen. Lo spleen non va curato, va coltivato e coccolato, come se fosse la testa di un animaletto, con attaccato il corpo dell'animaletto, se no diventa un crimine. Administrador, delegado, somos gratos que cada dia nossa fábrica é carnaval. Administrador, é delegado, somos gratos que cada dia nessa fábrica é carnaval. E ora le domande per le quali un pugno come risposta è troppo poco. Cap, in questa notte senza luna, tu ti sei mai chiesto che cos'è l'amore? Aia! Ah! Aia! Ah, ecco, sì, sì. Adesso hai capito. Sì, sì, sì. In the middle of nowhere. Calatevi pure le vostre pastigliette. Però poi sappiate che vi viene fame E quindi ingrassate? Ingrasso, sì. Sì, ma sta su, girati! Guarda che adesso fanno anche delle leggi contro gli obesi, eh? Mica vi conviene tanto ingrassare, Sì. Guarda che in Inghilterra, e lì Tony Blair ha detto: se tu sei grasso, a te io ti curo per ultimo. Sì, che poi essere curati da Tony Blair, forse è meglio anche aspettare. O no? È morto. Hai l'automobile rotta, vendila al pollo. Metti la giacca più brutta, fai ridere il pollo. Fai vedere che sei tosto, conosci i tuoi polli. Vuoi andare a dormire presto, vai a letto coi polli. Qui se muovo lo seno, il pollo è espiatorio. Ti servi di me per sembrare serio, un pollo è per sempre, è amico dell'uomo, è più di un diamante, un amante per te. La fabbrica di polli. Baudelaire è morto nel 1867 dopo essere rimasto paralizzato qualche mese. Allora adesso capisco perché aveva lo spleen paralizzato lì, certo. Nel letto, poverino. Più che altro aveva una paresi, perché... Tra spleen e paresi, non è che ci sia poi tutta quella differenza, no? Cioè ti viene la tristezza comunque. La paresi è l'ideale, invece dello spleen è l'ideale. Forse avrebbe funzionato. Sì, se avesse scritto la paresi l'ideale, 150 anni fa avrebbe sicuramente scritto la prima poesia della storia della letteratura contenente la parola paresi. E poi Baudelaire lo spleen ce l'aveva prima di avere la paresi. Quindi lo spleen gli ha fatto venire una paresi. Sì, cioè non il contrario. Lui aveva lo spleen e quindi faceva certe giornate in cui prendeva hashish, oppio, etere, alcol, non necessariamente in quest'ordine. Poi lo spleen rimaneva, però lui continuava hashish, oppio, etere, alcol, avanti così. E poi dopo qualche anno gli è arrivata la mazzata. La fleur du mal, la Madonna, le nom de Dieu. Baudelaire con la paroxetina non avrebbe scritto i fiori del male e non avrebbe scritto neanche i promessi sposi. Ma sì, è tutto uguale, tanto chi è che oggi sa la differenza fra i promessi sposi e i fiori del male? Ma chi la sa? Ma cosa serve sapere che differenza c'è fra i fiori del male e i promessi sposi? Serve forse a mandare avanti un'azienda? No. E allora, cosa c'è di utile oggi in questo mondo? Mandare avanti le aziende. Quindi, se qualche cosa che tu sai non serve a mandare avanti l'azienda, è inutile saperlo. È giusto o no? Fila? Fila? Sto facendo la pubblicità alle magliette. Fila? No. La fabbrica di polli. Vabbè, ma lo sai che a me la poesia non è mai piaciuta? E a te? Pasta asciutta? Ma no! Non mi è mai piaciuta! Non pasta asciutta! Ma tu capisci solo pasta asciuta? No, è episcopale. Ecco bene, episcopale. Però ti informo che sia pasta asciutta sia episcopale, con la poesia non c'entra niente, eh? Ma te a scuola non hanno fatto neanche imparare a memoria Leopardi? Leopardi? E Pascoli? Niente. E Carducci? Tarallucci! Ma no, Tarallucci! Carducci! Giosuè Carducci! Il poeta, no? Ma tu non sai niente, eh? Almeno Leopardi, no? Lui parla di noi, parla di polli. Passate la tempesta, odo ugelli far festa, e la gallina tornata in sulla via, che ripete il suo gesto. Che cosa succederà adesso? Tarek prenderà forse una laurea in letteratura italiana e si dedicherà interamente allo studio di Leopardi? Lo saprete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo verseggiante allestimento del... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com.